Attenzione, benario, 10K. Hola. Bene, a voce. E bellillo, butta la pasta. Attenzione, binario 10, capo. E bellillo, butta la pasta. E beh, ciccio, Emanuele. Dateci tutto! Beh, allora... Ciao Anto, ma tu avevi chiamato poc'anzi, avevi fatto una chiamata, un rumore. Io mi sto azzuffando al computer per fare funzionare un programma e quindi è un caso che sia qua. Qualcuno è entrato. Ho sentito Emanuele, ho chiamato, non mi ha risposto. Chi è che ave? Sì, ti sentiamo, però stai uscendo male. Tutto... Marco da questa parte, in compagnia di Antonio, chi sei? Antonio, lo copi? Ho copiato un po' strano, non ho capito chi sei. Aspetta che mi metto lo squelcio al minimo, se no... C'è la propagazione, casino. L'altro chi era? Avanti. Ok, sì, perché stai uscendo anche un po' strano, un po' a scariche, c'è una leggera alternata anche sotto. Vabbè, Anto, io ritorno là a fare quello che stavo facendo, tanto poi sabato di solito e domenica non entra nessuno, chi può va fuori, domani vediamo se andiamo in campagna o no, almeno mettere la testa fuori casa che ogni tanto. Bene, ciao Anto, ci sentiamo. Si occupavi di un muro, ok, ciao a tutti, ciao. No, aspetta, io mi sono un attimino disagiato perché stavo volando una cosa, non lo si può vedere un muro, capa. Stavo andando a fare una cosa. Sì, lo so. Ma se ci vuole a vedere ci lo c'è neanche. Già è vero, sabato e domenica meno che mai. Perché chi può va fuori, campagna, cosa, piscina, quello che è. E quindi nemmeno Pomponio entra il sabato e domenica. Cioè lo sento nei giorni feriali, ma sabato e domenica non lo sento. Anche lui in villeggiatura, con lo yacht, col Panfilo, per carità questi ricchi. Usando di babbo d'olio. Tu sai che si è fatto la cacchina al bambino? Come Anto? Toccando sta? Toccando roba? No, mi sa che si è cagato. Ai, mamma mia, quella è la cosa più seccante, dove cambiare, mamma mia. Vabbè, se c'è però qualche donna in casa meglio farlo fare alle donne. Ci sono io e boh, devo chiamarlo pure subito che se l'ha fatta addosso. Appena cambiato, no, 5 minuti, neanche 2 minuti fa. Usando un doccato mi viago. Aspetta, a cambiarlo, va. Ehi, Antonio, cosa vuoi che sia? È Nutella senza zucchero quella. Ok, ciao. Guarda, lo chiamo. Chi è? Avanti.